anche le foche bevono Radio Wombat. Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Buonasera, buonasera a tutti e bentornati qui sulle frequenze di Radio Wombat. Questa è Basement Records per il vostro sabato sera di recupero vinilico. E la sigla era la stessa di sempre degli ultimi tempi, Build Me Up Buttercup dei Foundation in 45 giri. E stasera un grande ritorno, un lieto ritorno qua sulle frequenze di Radio Wombat e di Basement Records in particolare. È tornato a rimpinguare i vinili DJ Lomax. È un piacere tornare sulle frequenze. Non mi ricordo nemmeno se quando venni l'altra volta eravamo in AM o no, ma è bello essere. Sì, sì. Eravamo già in AM. Credo che fossimo già in AM. Sì, è un piacere di essere qui. Ribadiamo, la frequenza AM 1359 1359 in onde medie per la zona di Firenze. Il segnale del Wombat è sempre più potente, i tecnici stanno lavorando di brutto e sembra che il Wombat si stia espandendo, il segnale del Wombat in AM si stia espandendo sempre di più, quindi se avete la possibilità seguiteci in onde medie, o se no il sito è cambiato, ve lo ricordo, non è più wombatnoblogs.org ma è radiowombat.net. Se ancora non l'avete visitato, andate a vedere questo upgrade del sito, che da blog è diventato sito, quindi è diventato ora è proprio sito serio.net, radiowombat.net, senza nemmeno il www, è proprio, sì, è proprio il massimo dello stile. E stasera che facciamo? Mettiamo un po' di musica. E stasera ti ho chiamato proprio per rimpinguare il palinsesto di Radio Wombat con del sano funk. E questa volta rispetto all'altra volta c'è molto più punk nella scaletta. È vero, l'altra volta mi avevi stupito. Mi avevi stupito, è vero, l'altra volta. Come si chiama? Quella tipa finlandese, ma vedi, si diceva prima, ti devi segnare le cose e te le dimentichi. Esatto. Vabbè, comunque, niente, oggi portiamo un po' più di punk e iniziamo con del bel punk, nel senso, il primo disco che ci ascolteremo, la prima canzone che ci ascolteremo è... Ero spento, è per quello che non mi si sentiva. Ciao, adesso mi sentiamo, ciao. Un sacco di silenzio. Tante volte l'ho fatto live così, non mi ricordavo i testi, e mettevo silenzio, così almeno non mi si sentiva, non potevo sbagliare, no? Inizia sorpresa per Basement Records, oi. C'è sempre qualcosa, oi. Non funziona, ma comunque, a parte gli scherzi, dicevamo che l'altra volta c'era molto meno punk, questa volta ho portato molto più punk, e infatti iniziamo con un classicone, che ha una storia, cioè diciamo che è legato, l'ho portato perché? Bravo, perché? Esatto. L'ho portato perché questo gruppo qua ha suonato all'ultima edizione che è stata fatta dello Sparacchia Festival CP, e loro presentavano in quell'occasione un documentario sulla loro vita, e stiamo parlando sulla loro vita musicale, diciamo, e stiamo parlando dei Kina. E ho portato questo disco, l'ho comprato recentemente, tra l'altro, poco prima del concerto, questo vinile, ovviamente vinile storico, anni esatto. d'oro del punk hardcore italiano, gli anni 80, etichetta Blue Bass, che è l'etichetta degli Asker Du, dei Kina, che venivano soprannominate Asker Du from the Mountains, perché erano sono montanari. Sono di Aosta. E però andavano a Torino a suonare, che era la città più vicina dove c'erano le situazioni, perché Aosta... Non penso ci siano mai stati... Cioè, un sacco di neve, un sacco di montagne, ma di situazioni, di concerti, ma soprattutto roba così. Negli anni 80 mi sa che ce n'era di molti pochi. E quindi si recavano a Torino a suonare in tutte le situazioni, eccetera, eccetera, e venivano soprannominati gli Asker Du from the Mountains. Perché assomigliavano in maniera molto, diciamo, da lontano agli Asker Du, perché erano in tre... chitarre, basso, che cantavano, anche se però lì nei Kina soprattutto cantava il batterista, mentre negli Asker Du erano chitarrista e bassista quelli che mettevano di più le voci. Tra l'altro ricordiamo, è uscito il disco di Bob Mould quest'anno, non so se l'hai o l'avete sentito, a me è piaciuto. No, non l'ho sentito, è uscito però un disco nuovo, che è uscito. Lui continua a fare musica nonostante cosa, no? Ha sempre fatto musica bella, ci puoi dir poco. Decisamente. Comunque, ritornando agli anni Ottanta... Poi c'è da aggiungere che, appunto, sono ritornati i Kina, a fare qualche serata un po' di tempo fa, perché era uscito il documentario, ho fatto un documentario che si chiama Se ho vinto, se ho perso, come esatto. Qui, che praticamente è un po' la storia dei Kina, un cortometraggio in cui parlano degli anni Ottanta, parlano della loro musica, del gruppo che hanno avuto dopo, eccetera, eccetera. I Frontiera, mi sembra si chiamavano ora in questo momento. Oggi è il giorno in cui mi dimentico i nomi delle cose. E domani è il giorno in cui è capitata male. Oltre all'on-off del microfono. Succede. In genere è di martedì, oggi è... Oggi è sabato. Oggi è sabato, ma va... Però martedì... Giovedì, sabato, quindi vedi, è uno sì, uno no, in genere è il martedì, però può succedere che diventi anche il sabato, anche non si sa. Comunque, vedremo. Ci ascoltiamo gli Asker Du from the Mountains. Assolutamente sì, questi sono i Kina. con questi anni, naturalmente qui a Basement Records, Radio Wombat. Siamo tornati in onda e questi erano i Kina con Questi anni. Bellissimo, un tuffo negli anni 80. Adesso invece ci catapultiamo nel 2020, perché andremo a sentire un pezzo di un gruppo di amici, di carissimi amici di Milano, che si chiamano Cobra. Questo disco è un disco recente, è uscito quest'anno, poco prima di quest'estate, ed è stato valutato e recensito da diverse fanzine, webzine, eccetera, eccetera, eccetera, come uno dei migliori dischi in ambito punk, do it yourself, comunque parliamo sempre di Do It Yourself, mondiale addirittura, ed è... loro sono un gruppo di Milano, di appunto di cari amici, il batterista è un tatuatore, mi ha tatuato quest'estate, il cantante è passato da Firenze, e niente, siamo beccati, si è bevuto insieme, serata marcia come sempre. Dovevano suonare all'Emerson 2 anni fa, non sono venuti perché dovevamo andare in tour con loro, con uno dei miei gruppi, e la prima data del tour doveva essere loro che suonavano a Firenze senza di noi, e non vennero perché quel fenomeno del cantante, fra che saluto, si dimenticò di avere, cioè si dimenticò non trovava la carta d'identità. Dovevamo andare in tour in Grecia e quindi, non trovando la carta d'identità, se ne è accorto ovviamente all'ultimo, prima di partire, ha dovuto aspettare, cioè non sono potuti venire a suonare a Firenze, non è potuto partire perché la prima data a Firenze coincideva con l'unico giorno che aveva a disposizione per poter rifare la carta d'identità. Ah, perfetto. E quindi non sono scesi, ci siamo visti il giorno dopo e la morale storia è finita con lui che ritrova la carta d'identità, ovviamente. Il giorno della mattina dopo... No, allora è una storia a lieto fine, sì, comunque. Sì. E poi siamo partiti in tour, tutto questo 2 anni fa, mi sembra. E siamo andati in tour, loro avevano il primo disco, avevano alcuni pezzi di questo disco qui. E tra l'altro in quel tour lì il bassista loro attuale sostituì per il bassista dell'epoca, perché non poteva venire in tour, e poi il bassista dell'epoca diventò secondo chitarrista, quindi tour loro hanno acquisito un membro in più. Sì. E questo disco qui è uscito per un'etichetta americana abbastanza grossa, diciamo, e distribuito in Europa per Sorry State, mi sembra. Aspetta, non... Oggi appunto si diceva il giorno in cui non ti ricordi le cose, no? Ed è distribuito in Europa da un'etichetta inglese, la Quality Control, la Static Shock, scusate, che tra l'altro organizza un grand festival. Infatti gliel'ho detto a loro, vi chiameranno di sicuro a suonare, io voglio venire con voi, e tutti loro mi hanno detto sì, vieni, verrai con noi a fare il driver, ma si va in aereo, si andrà in aereo, quindi non so che driver farò. Guiderai l'aereo? Guiderò l'aereo. Sì, scusa. Come Bruce Dinson che guida l'aereo. Esatto. Che ha guidato l'aereo tra l'altro a Liverpool che ha giocato a Napoli. Era Bruce Dinson, sì, il pilota? Sì, ha guidato l'aereo del Liverpool, ma 2 o 3 anni fa, mi sembra. Ma senti che storia. Notizie, pillole di cazzate. Tutti questi gossip del... prima della scena underground italiana e poi della scena mainstream, addirittura della scena mainstream. Comunque, ora ci ascoltiamo l'anarcopunk, chiamiamolo così, dei Cobra, con Combatti, tratto da Confusione. Yeah, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. Per i disguidi tecnici, era 45 giri. Oi. Era 3. Sì, scusate. No, via, allora bisogna ripartire, perché mi ha svelato un segreto nella mia ignoranza, e appunto sì, che a volte per risparmiare si fanno i dischi che vanno un po' più veloci o un po' più cioè dipende cosa vuoi fare, magari io ho visto un disco grosso, un padellone da 12 pollici, ho detto è per forza 33, e invece ma Qui Lomax mi ha appena svelato un trucco della del scena punk. Che si fanno andare i dischi più veloci, così almeno risparmi, ci puoi mettere più roba, o se no, invece fare un 7 pollici, fai geniale, un 12 pollici. Geniale, geniale. Alla fine, tanto anche perché ormai quelli che stampano, decidi te a che velocità mandarli. Certo. Quindi sono scelte magari uno fa a caso o ponderate. Questa volta non si sa se è stata fatta a caso o ponderata. Però è così, e allora li facciamo ripartire. Sono sempre i Cobra con Combatti. Ovviamente il punk è così veloce, sì, diretto. Velocissimo, in più, capito? In più è anche a 45 giri, anche se è un padellone, dura poco. Combatti per non morire. Esatto, esatto. Quindi se combatti deve essere veloce, giusto? È certo. E adesso parliamo del prossimo disco che andremo a sentire. Il prossimo pezzo del prossimo disco. Ce lo introduca, per cortesia. Questi sono anch'essi degli amici, dei cari amici greci di Atene, i quali ci presentano il loro post-punk che ha un po' spopolato questo disco abbastanza, cioè questo gruppo qui è diventato un gruppo che ha girato hanno girato tutta Europa praticamente, dovevano andare addirittura a marzo, febbraio a fare un tour in America di un mese e mezzo, e ovviamente non sono potuti partire per... Poi è capitata una cosuccia. Sì, piccolina. Una cosuccia nel frattempo. Sì, infatti in quel periodo lì ci sentivamo quasi tutti i giorni con Jason, col chitarrista, perché appunto gli dicevo, dai, ma allora andate o non andate, e lui mi teneva aggiornato sulla situazione Covid in Grecia, sulla situazione Covid, sulle relazioni tra l'America e la Grecia per i voli, eccetera, eccetera, che decisero di non partire. Deciso di non partire, stavo indicando mi stavo indicando la canzone, il lato, perché sai, ovviamente essendo tutto materiale non fisico e non digitale, non puoi far vedere, cioè devi indicare col dito, non puoi, insomma, ti devi fermare per fare questa mossa, esattamente. E quindi stavamo dicendo che Chain Cult sono un gruppo greco di sti ragazzi che tra l'altro hanno suonato anche a Firenze al festival a Hydra Fest tre anni fa. Io oggi, oltre a non ricordarmi i nomi, non ricordo nemmeno le date, gli anni, ma quello tutti i giorni, non solo di martedì non è, o di non, sabato. Non è una cosa dipendente dal sabato sera. No. E abbiamo avuto il piacere di fare due date con loro. No, una data con loro. A Roma, è stata molto figa, insieme all'Education, altri amici di Roma. E questo disco qui esce per la Videsummus, che è un'etichetta inglese amica dell'etichetta che distribuisce i Cobra. Poi nel punk, meno male, ci si conosce tutti, no? Lo stavo per dire. Sì, ci si conosce tutti, ai miei tempi ci si conosceva tutti, si poteva lasciare la chiave di casa dentro la serratura. Così è il punk, no? Puoi permetterti di lasciare la chiave di casa dentro la serratura. E quindi ci andiamo ad ascoltare A Distant Echo, dei grechi Chain Cult. Tra l'altro uno sketch carino fu quando suonarono a Firenze, suonarono insieme all'Education, che sono di Roma, e non mi ricordo con chi ragionavo, dovevamo andare a mangiare al ristorante cinese, e quindi tipo ragionavo con, non mi ricordo con chi, e gli dissi, guarda, i romani e i greci sono già il ristorante. E poi mi venne a dir lì, e gli Etruschi dove li abbiamo messi? Perché c'era questa cosa di epoche classiche, epoche antiche, i romani e i greci sono i ristoranti. Ma canzone, ristorante cinese, tra l'altro. Tra l'altro. Quindi egemonie dell'epoca, anche all'epoca, no? Grandi imperi, anche se distanti, ma... E niente, fa ridere sta cazzata. Bellissimo. A distant echo, Chain Cult. Basement Records, Radio Wombat. Questi erano i greci, Chain Cult. Siamo tornati in studio, nello studio di Basement Records. Nella tana del Wombat. La tana del Wombat. E ripartiamo a bomba con dell'altro punk. Questa volta punk rock. I già nominati, tra l'altro, vedo. Me li nominavi prima, no? I Descendants. Sì. I, appunto, questo Descendants, i discendenti. Ci andiamo a sentire questo gruppettino piccolino che ha fatto la storia, un minimo la storia del punk rock americano degli anni 80-90 e anche recente, perché è uscito un disco 2 o 3 anni fa, Hyper Coffee in non mi ricordo, non ha un titolo astruso. Sì, eh? Sì, loro sono sempre stati focati per il caffè. Poi il cantante è tipo un ricercatore di roba agroalimentare in America. Un mezzo cervellone. Ho avuto il piacere di vederli 4 anni fa a Milano. E sta un concertone, loro sono una bomba, anche perché sono dei musicisti della Madonna. Il batterista Bill Stevenson è stato batterista anche dei Black Flag, insomma, non il primo arrivato. Non proprio il primo che capitava per la strada. No. Anzi, diciamo che tanti batteristi punk poi si sono ispirati a lui, anche il batterista del Blink 182, a parte che lo vedi come suona come Bill Stevenson, e poi l'ha detto anche lui, e il mio batterista preferito è lui, e effettivamente... Fa bene perché ha inventato un modo di suonare. Insomma, sì. fa quello che deve fare. Sì, sì, e poi appunto si diceva prima, quando sei il primo a fare una cosa... Certo. Spiani la strada poi. E quindi ci ascoltiamo da Everything Sucks, la canzone si chiama We, che è un inno alla positività, diciamo, al presobenismo, più o meno. Cioè, dice, bello, al presobenismo. Tutto andrà bene, no? Che è anche strano, di solito, nel senso... Per il punk, esatto, dici. Però per questo io, essendo, come dire, un po' più... È già post. Sì, più commerciale, più per... Anche i suoni sono più allegri, non puoi dire moriremo tutti quando c'è i suoni allegri. Mentre sì, per, suoni però, upi... però il titolo è traviante, perché certo. Everything Sucks. Sì, fa tutto, tutto schifo. Però poi però, ogni tanto ti mettono quelle pillole Poi l'ascolti invece. We, Descendants. Basement Records, Radio Wombat. Tornati nella tana del Wombat ancora una Rieccoci volta. Rieccoci qua nella regia del Wombat. Questi erano i Descendants con We. Noi. Bene, adesso... Noatri. Adesso andiamo in una terra che è mistrattata da tanti, cioè la Francia. Cioè perlomeno mi è sempre sembrato che in tanti offendessero i francesi, mangia com'è che li chiamano? Mangia escargot, come si dice in italiano? Sì, mangia lumache, mangia maledetti, mangia lumache. E invece negli ultimi anni, per quanto riguarda il punk e affini, ha tirato fuori diversi dischi. È rinata la scena punk. È rinata la scena punk in Francia. Noi andammo a suonare in Francia tipo 14-15 anni fa e erano tutti avevano tutti più di 30-35 anni, anche 40, quelli a concerti. Mancava il ricambio generazionale. Mi sa che mancava il ricambio generazionale. C'è stato da un po' di tempo a questa parte e stanno tirando fuori dei gruppi incredibili, secondo me. Cioè, quello che poteva essere l'Italia con le dovute proporzioni negli anni 80 del punk, comunque il punk italiano era visto nel mondo come tra i migliori perché c'era molta innovazione, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso è la Francia, diciamo. Butto là questo paragone a cazzo di cane. Vabbè, adesso è la scena punk francese ad essere sulla cresta dell'onda. Sì, siamo andati prima del lockdown, a febbraio, siamo andati a suonare in Francia facendo due date, una a Marsiglia e quell'altra a Lione, e sono stati due concertoni, cioè un monte di gente, presa benissimo, ci siamo divertiti tantissimo. Questo disco qua, invece, l'ho comprato all'ultimo concerto che abbiamo fatto qui a Firenze con gli Iena, da Roberto del Nation, ed è... Questo è un gruppo francese, appunto, l'abbiamo capito dal fatto che stavamo elogiando il punk francese, penso. E questo gruppo qui è un gruppo un po' oi, un po' post-punk. Nel senso, c'ha dei suoni che sono un po' post-punk, ma le canzoni sono oi. Poi c'è la voce del tipo con un po' d'eco, e quindi sono un po' strani. Diciamo, sono contaminazioni... che sono prese poi da un gruppo che forse dopo sentiremo, non lo so. Diciamo che non sono proprio il classico post-punk, sì. Ma è un qualcosa di diverso, appunto, perché visto che la scena francese è sulla cresta dell'onda del punk, vuol dire che t'ha tirato fuori qualcosa di nuovo, sì, no? Sì, no, è vero. O ha tirato fuori qualcosa di vecchio, dandogli una spolverata e facendolo sembrare più nuovo. Dandogli sopra una mano di coppale. Magari sta coppale l'avranno data con la baguette o con del formaggio di capra. Sì. Non lo so, però comunque gliel'hanno data. E il suo è venuto bene, nel senso. Infatti io sono un grande fan di baguette e di formaggio di capra. Volte vado in Francia come biasimarti, io anche descargo a essere sincero. No, io non mangio carne da anni ormai e mi hanno sempre ma quello è molliccio, ma lo sai, la mia nonna in Sicilia le fa ancora e non ce la faccio. Ma anche da noi si anche fanno, da qui si fanno, sì. Sia di mare che di terra, sì. Io mi ricordo mio nonno negli anni 90 che le andava a cercare a Inneto quelle che uscivano dalle fogne, come cazzo faceva a mangiarle, non lo so. Ma poi quelle sono più saporite, quelle sono più saporite di spurgare, sì, lasciare in ammollo, le hanno spurgare un tot, quante ne ho fatte scappare giù in Sicilia alla mia nonna di quelle, e poi con tanta pazienza, uno stecchino in mano, sì, è un po' come il punk francese, con tanta pazienza, uno stecchino in mano. Ci ascoltiamo i Traditori, traitor penso significhi traditori. E questa canzone si chiama Je me merde, che forse qui è allora qui ci sono varie scuole di pensiero, sì, io, diverse. Non essendo madrelingua, je parle français très bien, mais je ne comprends pas où si prononce e qu'est-ce que vous dites? Je me merde. Che forse vuol dire io mi smerdo. Pour moi je me merde vuol dire me sono cagato. Sì, io mi smerdo, tra l'altro in fiorentino, perché c'è una connessione, no, tra il francese e il fiorentino, sì, tirabuchon. Certo, no? Ci sono delle termini crepe, che sono rimasti. Perché molto probabilmente la Caterina de' Medici che ha sposato Luigi, bravissimo. Numero a caso di cui non ricordo. Magari disse una volta Luigi 14 sarà stato il 14, sì, penso di sì. Il Re Sole sposò Ah sì, no, ma quello era quel Re Sole, non è stato quello ghigliottinato. Sì, Re Sole quello ghigliottinato. Quella era Maria Antonietta, lei era prima. O Luigi XIII o Luigi XII. Oh, sì, sì, probabile, insomma, ci sta che alla corte di Francia abbia detto mi sono smerdata. Cultura a Radio Wombat, a Basement Records. E secondo me ci sta che lei abbia detto, dopo aver cucinato, Madonna mi sono smerdata, e quindi poi si è diventata oggi me in francese, può essere. Noi abbiamo portato, noi un parolone, i fiorentini hanno portato i cucchiai e i coltelli, ma anche io mi smerdo, mi sa. Probabile. Vai. Sentiamo. Proviamoci. Smerdo. Torniamo live su Basement Records. E questa no, erano i Tatre. Con Je me merde. Mi raccomando, la R. R deve essere importante, perché le francese si così con sa. Ah, tra l'altro, poi dopo parleremo anche di altra Francia, ma dopo. Adesso invece torniamo in Italia. Se no, troppa Francia tutta insieme. Poi ti rimane indigesta. Dopo ci vorrebbe, se no dopo ci vuole Genefì. Sì, no, meglio di no. Che sì, infatti. Bene, adesso torniamo in Italia. Torniamo in Italia, andiamo più precisamente a Bologna. Per questo disco che anch'esso è uscito quest'anno, anch'esso riferito ai Cobra che abbiamo ascoltato all'inizio. Anche abbiamo ascoltato come secondi. E loro sono gli Honor Bahui, sono un gruppo post-punk. Davvero, non mezzi oi come questi di prima, eh. E questo disco qui l'ho preso, l'ho comprato direttamente dal bassista che è venuto a portarmi le ciliegie che ha colto a Bologna, a Grosseto, perché lui in realtà è di Massa Marittima. Addirittura. Sì, in un colpo solo abbiamo fatto ciliegie e dischi, perché comunque ha visto tanti punk sono molto legati all'agricoltura, sono agropunk. Certo, ma voglio dire, ma a te, oltre a portarti i dischi a casa, ti portano pure le ciliegie. Cazzo sì. Voglio. I duroni di Bologna. Sì, perché sto ragazzo in realtà quelle famose sono di Vignola. Di Vignola, beh sì, lui è vicino, Vignola è in provincia di Bologna. Di Modena. È vero. Comunque sarà all'altro lato dell'Appennino, non lo so, ma Rambone. No, è il confine, dai, è lì. Sì, è lì. E insomma, praticamente ci siamo beccati alla l'Ipercop di Grosseto, un luogo ameno ai più... soprattutto agli abitanti del luogo che hanno un minimo di parvenza alternativa, perché appunto ci siamo visti lì, perché lui è da Bologna, è sceso a Massa Marittima, perché lui è di Massa Marittima, e io ero a Grosseto a fare un giro perché sono diventato mare in mano d'adozione, e ci siamo visti lì e abbiamo fatto questa cosa in cui praticamente io gli ho comprato i dischi e le ciliegie. E ti ha fatto un prezzo forfettario. Tutti i dischi ha fatto uscire lui, in cui suona lui, e gli ho fatto dare tutti i dischi in cui suono io. Sì, e allora spero che sia venuto almeno con un rimorchio, perché se gli hai dato i dischi dove suono io, cioè... No, per i dischi che sono usciti quest'anno dove sono io. Allora forse una station wagon bastava allora, no? Perché se no addio, cioè. Anche lui comunque, cioè, sono in diversi gruppi, quindi lui c'aveva davvero una station wagon, io c'ho un furgone, quindi c'entrava tutto. E niente, ci siamo fatti questo scambio mezzo regalo, mezzo scambio di soldi, non ricordo bene, poi siamo stati un po' lì a ragionare, e niente, questo disco qui a me è piaciuto molto, gliel'ho detto a lui, gliel'ho detto agli altri horror vacui che ho sentito nel corso del tempo, nel corso dell'anno. Secondo me è una delle migliori uscite in Italia insieme ai Cobra che abbiamo sentito prima di quest'anno. Quindi è un best of del punk 2020. Ma mi stai facendo. Sì, perché ho portato tanta roba moderna, di ora, sì. Che meraviglia, solamente qui a Basement Records, Radio Wombat. E quindi, in questo best of 2020... punk, do it yourself, chi più ne ha più ne metta, ci andiamo ad ascoltare la prima traccia del disco che si chiama Living for Nothing degli Horror Vacui. La canzone si chiama Consolation Prize e niente, premio di consolazione. Sentiamocelo questo premio di consolazione, ovviamente qui a Basement Records, Radio Wombat, dove se no. Ed eccoci qua, tornati nella regia del Wombat. Mentre ci perdevamo in chiacchiere sui dischi. E torniamo adesso indietro un po' nel tempo. Questo disco che andiamo a sentire ora, che è un disco, il disco dei Bones Brigade, che si chiama Focused. Questo gruppo qui ho avuto la fortuna di vederlo nel 2004 o 2005 a Pisa, all'università occupata, e l'ho portato perché oltre ad essere un gran disco di thrashcore di quegli anni, ultimamente sono stato inserito in una chat in cui ci sono delle persone simpatiche da tutto il mondo, sì, tutto il mondo, buona, da tutta Italia, e spesso questo, il concetto... C'era da aspettarsi di tutto da uno international come te, non mi sarei mai stupito, E invece no, da tutta Italia, anche se in realtà il 50% sono toscani in questa chat, quindi fa ridere per quello, e è saltato fuori più di una volta... E abbiamo parlato di questo concerto qua, che c'è stato a Pisa, dove c'erano tutti gli sbarbatelli del punk toscano dell'epoca. Ed è stato un concertone. È stato un concertone perché noi eravamo tutti giovani, 2004, tipo di quanti cazzo d'anni sapeva? 18 anni, quindi i primi concerti che ti vedi, viene il gruppo figo, te lo sei ascoltato più e più volte. Focatissimo, infatti ci fu un delirio. Se vi capita così a casa, andate su YouTube e scrivete Bones Brigade Live Pisa e appariranno queste immagini di gente senza barba che si tuffa, fa stage diving, coccodrilli volanti. Mi piace questa puntualizzazione del senza barba. Sì, perché poi c'è gente proprio che ora c'ha la barba lunga e in quel video dice ma sei di te quello? Ma sei davvero? No, perché poi qualità dell'epoca, quindi non che ora ai concerti punk ci siano i video di super qualità, però è più facile trovare qualcosa che registra con dei... che c'ha una fotocamera potente, no? All'epoca c'era delle cose tremende, però il video, c'è questo live, è carino, insomma. Se volete vedere come cosa vuol dire un concerto punk hardcore d'estate, serio, sia il pubblico, ma soprattutto il gruppo è stato fenomenale. Certificato dall'Omax, Mihazzi. E poi tra l'altro vedo nella copertina del disco, se ne parlava prima, uno scheletro che va su uno skate distrutto, sì. Infatti Bones Brigade io la conoscevo come una famosa crew di un team di skateboard. Sì, infatti loro sono focatissimi per lo skate e si chiamano Bones Brigade appunto in onore di questa crew californiana di Los Angeles, sì, mi sembra, sì, e c'è sta sì, anche sì. Il film, l'ho anche visto. E poi, infatti uno dei loro dischi si chiama I Hate Myself When I'm Not Skateboarding. E noi ci andiamo ad ascoltare Focused, concentrato, penso significa. Concentrato, Diane. Ovviamente qui a Basement Records, Radio Wombat. Siamo tornati back in regia e adesso ci spostiamo in quella terra che prima stavamo elogiando ma anche un po' infamando, che è la Francia. Andiamo direttamente a Lione, da questo gruppo composto da tre ragazze e un ragazzo, con cui abbiamo avuto il piacere di suonare in Croazia, a Zagabria. E quella sera lì fu molto divertente, siamo divertiti, il concerto è stato figo, pieno di gente, e siamo diventati amici delle litige, come diciamo noi. E siamo riusciti anche ad andare a suonare prima del lockdown in Francia, quelle date vi dicevo prima, una di queste è stata a Lione, organizzata da Che loro. Giramondo che sei! Infatti guarda, quest'anno... Vagabondo, come avrebbe detto la mia nonna. Vagabondo, ce l'ho anche tatuato, vagabondo, infatti. E quest'anno, infatti, mi è dispiaciuto molto non poter andare in giro, suonare o vedere cose o vedere gente, stare a casa. Sto sentendo, guarda, davvero, ultimamente... Mi sto sentendo recluso, non mi era successo prima in tutto questo lockdown. Cioè, da due settimane sto un po' sbarellando. Un conto è se decidi di non uscire. Che ci può stare. A voglia. Un conto è quando ti impongono di stare a casa. Di non uscire. Che comunque vivi già diverso. Nel senso, uno. Non stiamo sottovalutando la pandemia, tutt'altro. Però comunque ci manca, perlomeno a me, davvero da due settimane a questa parte, sento proprio che mi manca uscire, mi manca vedere gente. Comunque, ripensiamo ai tempi in cui si usciva, sperando che cavolo, usciremo sì, presto. E quindi, uno dei concerti più belli che ho fatto quest'anno è stato a Lione, appunto, dalle Litige, che registrarono il disco in quel periodo lì, a febbraio, ed uscì poco dopo. E secondo me questo è un altro disco francese che non ho portato, perché ho detto se no troppa Francia, poi dopo mi scambiano per un filo francese e non l'ho portato, però portavo questo. Allora, il disco si chiama Enoch Trouble e la canzone si chiama Samurai. Queste sono le Litige, punk rock figo, a me piace molto. Questo disco secondo me, appunto, ripeto, è uno dei migliori usciti quest'anno. Che dici? Ci andiamo ad ascoltare? Sentiamoceli. Samurai? Samurai, Litige, Basement Records, Radio Wombat. Bye. Eccoci qua. We are back on AM. On AM. 1359 kilohertz. AM. Radio Wombat. Ci si becca sulle frequenze medie. Bene, bene, bene. Tra bene. L'altro, dicevamo prima, un vinile completamente bianco. Molto difficile trovare le tracce. Stilosissimo, eh? Ma non facilissimo per trovare le tracce, però bellissimo. I gruppi punk non hanno bisogno di essere messi da un DJ e quindi si possono permettere formati assurdi tipo quello trasparente, no? Quello bianco, eccetera, eccetera. E adesso ci ascoltiamo forse l'ultimo disco di stasera, ora si guarda un po' come ci piglia. Come? Oh, me lo dici così? Te lo dico perché questo disco è anche l'ultimo disco che ho ricevuto. Dico ricevuto perché mi è stato regalato dalla mia compagna che voleva regalarmi un disco. Cioè, anzi, i miei suoceri volevano regalarmi un disco, non sapendo cosa fare. Hanno sguinzagliato la figlia, che anche lei non sapendo cosa fare perché dice ce n'hai tanti, se poi te ne questo me l'ha detto dopo, se poi te ne prendo uno che già c'hai mi dispiace, se poi te ne prendo uno che non ti piace mi dispiace, quindi è andata al contempo, è andata lì, è stata tipo e mi hai portato Gigi D'Alessio. Sì. Il best di Gigi D'Alessio, è andata al contempo e non sapendo cosa fare, stava lì tipo un pomeriggio non sapendo cosa prendere, girava e il tipo del contempo quello con la barba gli fa cosa cerchi. Che lei gli ha spiegato un po' i miei gusti, cosa ascolto ultimamente. E già che gli ha chiesto cosa cerchi e non che ha perso. Certo, è già un punto positivo. E niente, gli ha fatto sentire questo gruppo qui che io conoscevo, i The Sound li conoscevo, però non avevo ascoltato approfonditamente niente di loro. E ha preso questo disco Geopardy su consiglio del Barbuto, che ha messo il disco a tutto volume nel negozio deserto. E si sentiva solo, cioè la gente non poteva parlare perché c'era sto disco a volume massimo, ha detto. E niente, l'ha portata a casa, io super contento, l'ho messo su e sto ascoltando solo sto disco, praticamente da una settimana. In loop. Perché io ho fatto gli anni una settimana fa e quindi solo questo disco. Auguri! Grazie. Angurie! Missili è la traduzione di questa canzone. Missiles, The Sound, anno 1980, uno dei gruppi più sottovalutati del post-punk mondiale, contemporaneo Joy Division, eccetera. Ma questo disco, bellissimo, non se l'ha inculato nessuno. Noi ce l'ascoltiamo, Chicche qui a Basement Records, Radio Wombat. Yeah. E sorpresa, come sempre, qui a Basement Records. E ci siamo accorti che questa non è Missiles, quella che volevo mettere io. Però è forse la prima volta che non è colpa nostra. No, infatti, perché alziamo le mani. Alziamo le mani dicendo che sul retro di questo disco c'è scritto che l'ultima del lato 1 è Missiles. Noi l'abbiamo messo l'ultima del lato 1 e in realtà è la prima del lato 2. Quindi c'è stato un errore nella stampa del retro, presumo. Ora, cioè, nel senso, voi non ci potete vedere, quindi... Abbiamo le prove. Abbiamo le prove. Metteremo la foto del disco e capire... Vedi, con un supporto digitale una cosa del genere non sarebbe mai potuta succedere. A meno che uno scoppiato non abbia scritto il nome sbagliato della canzone. Esatto. E invece con il vinile possono succedere queste cose anche se la conta delle tracce era quella, ma la stampa della copertina evidentemente indica il contrario. Esatto. E quindi niente, ci ascoltiamo Missiles ripetendo, ascoltate. Stavo notando una cosa, come mai sul centrino del... sto facendo una domanda. 1972, l'album si chiama Jeopardy. E il disco è dell'80. E l'etichetta? Sarà il nome dell'etichetta? È l'etichetta. Ebbene sì. Bravissimo. E loro erano anche sotto l'etichetta. Un'etichetta di Oakland, californiana. Questa l'avranno ristampato loro, perché loro in realtà erano sotto la stessa etichetta degli Echo and the Bunnymen, tra l'altro. Questo disco qui in Inghilterra, perlomeno penso, internet dice che è uscito per la stessa etichetta degli Echo and the Bunnymen, quindi erano in buona compagnia per quanto riguarda il post-punk. Assolutamente sì. Però appunto questo disco non è tanto conosciuto, o perlomeno non è venerato come tanti altri dischi post-punk. Il sound è proprio quello, è riconoscibilissimo, è appunto... E tra l'altro faceva tutto il chitarrista cantante, pezzi li scriveva lui, poi ha fatto la carriera solista, era lui un po' il capo e suonava anche in un gruppo punk, uno dei primi gruppi punk nati in Inghilterra sulla scia dei Sex Pistols, eccetera, di cui non ricordo il nome, sentito... Anche se semisconosciuti, perché non registrarono mai nulla, visto? Magari avevano fatto solo demo? Sì, ma secondo me nemmeno, cioè mi sembra che su YouTube si trova solo tipo i live, no? C'è qualche concerto registrato. C'è qualche concerto loro live, e poi lui fondò questo gruppo qua, e c'è una tipa che suona le tastiere, il clarinetto, infatti in questa canzone si è sentita la tastiera, in alto c'è anche il clarinetto. Comunque noi ci ascoltiamo Missili adesso. Stavolta saranno Missili davvero? Chi lo sa? Scopriamolo subito. Ci siamo davvero? We'll be right back. bellissima. Ed era Miss Siles davvero. Era stavolta, davvero Miss Siles. Stavolta ci abbiamo azzeccato. Non per colpa nostra, cioè stavamo dicendo ribadiamolo, ribadiamolo. Sì, sì, e poi non è una cosa così strana, insomma, anche qua a Basement, al di là delle colpe proprie, era già successo anche, appunto, si diceva o i centrini invertiti lato A e lato B, oppure proprio la scaletta che non tornava poi effettivamente con quello che era inciso con i solchi. Comunque, appunto, con il vinile succede, è il bello perché può succedere anche questo, mentre se mettevi un CD, o qualunque formato digitale. Sì, sì, andavi su Spotify, questa cosa non poteva mai succedere. Esatto. A meno che non ti stai ascoltando lo Spotify di un gruppo sconosciuto, fattone, che si dimentica di scrivere le cose. Ma esatto, oppure, è molto più raro. Oppure un bel CD masterizzato dall'amico Fulminato. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Oppure ti può succedere, l'unica cosa che ti può succedere quando masterizzi CD, e c'è successo a noi, è che te magari scrivi le tracce in ordine tipo 1, 2, 3, numerico, e poi metti 10. E il 10 è vero, te lo mette vero prima. No? E a noi infatti ci è successo che ci hanno masterizzato, ci hanno fatto uscire ci hanno stampato un vinile sbagliando, perché c'erano i numeri scritti con così, e quindi praticamente tipo 1-11, e noi diciamo ma questa canzone però doveva essere in fondo, perché all'inizio 1-10 e dopo averci stampato 300 vinili abbiamo detto guardate non doveva essere così. E loro hanno detto, però è colpa vostra, ci avete mandato i file così. No, i file sono stati mandati in ordine numerico. Se poi il computer loro, con cui poi hanno fatto... Teoricamente avrebbero dovuto ricontrollare, sì, quantomeno. Perché, nel senso, io te l'ho mandato per bene, però è il computer che ti funziona in maniera differente. Posso testimoniare, allora, anche in questo caso non era colpa vostra. Non era colpa nostra stasera. Abbiamo un sacco di prove. Sì, sì, sì. La nostra discolpa. Sì, giusto così. È così. E quindi questo era l'ultimo vinile di stasera che ci ha portato il buon Lomax, che ringrazio sentitamente. Io ringrazio te per avermi fin da adesso invitato. È stato un piacere immergersi nella storia e anche soprattutto nell'attualità. Stasera. È stato un piacere passare del tempo nell'attualità qui a Basement Records. Radio Wombat. È stato un grande ritorno, appunto, sempre a... Il benvenuto e accolto a braccia aperte. Grazie a tutti e a tutte. Quindi non posso che rinnovare gli appuntamenti qui con Radio Wombat, le dirette di domani, del sabato, con il notiziario anticlericale, Container, Wukwops, Puyuit, Uru, cioè non sono tutte dirette, ma ve l'ho detto così in ordine sparso, però saranno tutte, più o meno tutti i programmi che ci saranno domani. Ora, non mi bastonate per questa cosa approssimativa, ma sono tutte le trasmissioni che ci sono, e appunto questo è un invito anche per andare a controllare se l'ordine era esatto, cioè, giusto, visto, no? Visto, giusto per riagganciarsi alla questione vinilica di stasera. E con me medesimo rinnovo l'appuntamento a sabato prossimo, come sempre, per la diretta alle ore 22:30, e buon proseguimento di ascolto qui sulle frequenze di Radio Wombat, e buon sabato sera a tutti. Uno dei migliori sabati sera dell'anno, tra l'altro, che ho passato da marzo, da febbraio, marzo a ora. Grande. Anche perché che cazzo abbiamo fatto di sabato sera? Nulla. Per ora nulla. Nulla di nulla. Speriamo in un 2011 pieni di sabati sera. Siamo tornati indietro di 10 anni. Sì. Madonna. 2021, che cazzo sto dicendo? Speriamo che quest'anno ti piacerebbe 2011, sì, ancora. Speriamo che quest'anno sia bello, via. Speriamo che questo 2021 sia bello. Speriamo di esserci lasciati il 2020 alle spalle. Yo, Radio Wombat. We hear it. Wombat. Radio Wombat. Radio. Someone still loves you. Radio Wombat. Da sempre e obiettivamente la migliore.